del peccato di Adamo per l'umanità, vengono citati tre passi della lettera ai Romani, capitolo 5. Uno è quello che abbiamo più volte citato, Romani 5:12. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché tutti hanno peccato. Poi vabbè, Romani 5:18 e Romani 5:19, che sono sempre, collegano la, il tutti in Adamo al tutti in, in Cristo. Per la disobbedienza di uno solo, Adamo, tutti sono stati costituiti peccatori. Poi, invece, al 5:18, come per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo, Cristo, si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Allora, il fatto di leggere nella Bibbia Genesi insieme a San Paolo, che ci spiega, ci fa risaltare il valore dell'opera di Cristo, perché leggiamo l'insieme della scrittura e lo leggiamo insieme alla nella Chiesa, capiamo veramente che cosa il peccato originale ha provocato anche in noi, altrimenti non lo sapremmo. Ora, è interessante vedere che quando si dice che uno dei principi di interpretazione della Bibbia è leggere l'insieme della scrittura, poi è leggerlo con l'analogia della fede, cioè poi è leggerlo insieme alla Chiesa, nella Chiesa, diciamo. Significa proprio questo. Gli ebrei non hanno il Nuovo Testamento, quindi non riescono a vedere, a comprendere pienamente anche il senso anche di quella parte di scrittura che loro hanno, che è l'Antico Testamento. E, bene, allora questo mi sembrava utile dirlo, anche per mettere in luce come se oggi un esegeta dicesse adesso io mi prendo i primi capitoli di Genesi dove c'è la dottrina da cui si trae la dottrina sul peccato originale e faccio un'esegesi che tenga presente tutte le fonti storiche, che tenga presente tutti i risultati più attuali, allora poi da quello tiro fuori io qual era l'intenzione dell'autore sacro o degli autori sacri e quindi quello che noi da lì possiamo ricavare come insegnamento. No, sarebbe sbagliato, sarebbe parziale, cioè non sbagliato, sarebbe parziale come approccio. Quindi sicuramente da lì, da questo studio, non posso tirare fuori solo da questo il senso del peccato originale, la verità sul peccato originale. Perché? Perché ho bisogno intanto di tutta la scrittura e poi della Chiesa, perché chi legge la scrittura è la Chiesa e la legge alla luce anche di tutta la riflessione teologica, di tutta la tradizione, ecco. Quindi questo mi sembrava utile e importante metterlo in evidenza. Bene, ecco, a questo punto io pensavo di entrare un po' nel merito di delle questioni un po', ecco, più recenti. Noi abbiamo visto la dottrina fino al Concilio di Trento, come viene delineata e precisata, e vediamo adesso quello che un po' è l'area attuale, il dibattito anche teologico più attuale sul peccato originale. Mi baserò fondamentalmente su un articolo pubblicato su questo libro sul peccato originale, di cui voi avete una parte, diciamo il file. L'autore di questo articolo, che è una specie di quadro di insieme degli orientamenti teologici attuali e anche degli orientamenti poi dati dal Magistero, un articolo di Elio Castellucci, quindi voi lo trovate in un file PDF che ha quattro, c'è Agostino, c'è Tommaso, c'è poi Facchini e poi Castellucci alla fine. E seguo lui perché, per due motivi: uno, perché mi sembra un'esposizione abbastanza chiara e anche ordinata; due, perché non avendo un manuale io stesso non è che non conosco per niente, diciamo, tutto il panorama teologico attuale su questo, quindi su qualche cosa mi devo basare, e mi sembra utile basarmi un po' su quello che dice lui, poi cercando in alcuni punti di integrarlo un po' anche con altri dati. E bene, lui dice, diciamo, lui guarda con un occhio particolarmente interessato al dibattito che c'è tra la teologia in confronto con la visione scientifica attuale, anche perché in fondo è forse questo, quello delle teorie sulla nascita, sull'origine dell'uomo, l'ambito del sapere da cui provengono più domande o più critiche alla visione, all'insegnamento della Chiesa sul peccato originale e quindi anche un po' sull'origine dell'uomo. Però fa prima un quadro generale, Castellucci, in cui dice: si può notare una duplice tendenza, diciamo, che mette un po' in crisi l'insegnamento della Chiesa. E la prima tendenza è quella che tende a negare o a sottovalutare tout court il peccato originale, ritenendo che la teologia debba ormai sbarazzarsi di questa categoria come di una zavorra, ormai inattuale, ormai inadeguata rispetto a quello che la scienza ci dice sull'origine dell'uomo. Poi dopo chiariremo un po' meglio. Quindi c'è da un lato una tendenza a dire: non bisognerebbe più parlare di peccato originale, è una cosa. Una seconda tendenza invece meno radicale è quella che ammette l'esistenza del peccato originale, però lo destoricizza, cioè però dice: non possiamo dire che siano esistiti Adamo ed Eva, che sia esistita una prima copia. Non possiamo neanche dire che ci sia stato un fatto, un avvenimento all'inizio della storia da cui poi è venuta una conseguenza per tutti quanti. Questo non sarebbe, cioè non soddisfa, insomma, la nostra visione del mondo, che è nato attraverso un processo lento di evoluzione dove hanno influito miliardi di fattori. Pensare che poi ci sia stato un fatto storico che ha causato una conseguenza così grande per tutti sembra poco sostenibile. Quindi questo peccato originale cosa sarebbe? Quindi quelli che sostengono poi diciamo ci sono varie visioni che possono orientare in questo, un po' dopo poi le vedremo, ma semplicemente alcuni sostengono: bene, c'è una tendenza al male che è come innata nell'uomo, che può venire da motivi biologici o può venire da altri fattori, però quindi è previa all'esistenza dell'uomo e ogni uomo se la ritrova, però non possiamo dire che venga da un fatto che ha provocato come conseguenza questa tendenza al male. Il problema qual è? Il problema che già si delinea è che, dice Castellucci, un po' l'abbiamo detto, se uno non pone un momento nel quale è avvenuto qualcosa che ha peggiorato la situazione dell'uomo, se non c'è mai stata una condizione dell'uomo migliore, totalmente buona, allora finiremmo con l'attribuire a Dio l'origine del male nell'uomo, cioè come se Dio avesse fatto l'uomo con una sorta di difetto di fabbricazione. Quindi il fatto di affermare la storicità del peccato originale ha il grande valore di affermare questo, che Dio non è l'origine del male, l'origine del male è una deviazione dell'uomo rispetto a quello che Dio aveva pensato per lui. Quindi questo già. Ecco, andando un po' più nel dettaglio, le principali discussioni che nell'ultimo secolo e mezzo, quindi lui guarda da Darwin in poi, da quando diciamo c'è stato effettivamente un grosso progresso nello studio e nelle conoscenze riguardo a come si è formato l'universo, le specie viventi e l'uomo. Le principali discussioni di quest'ultimo secolo e mezzo si possono raccogliere intorno a quattro tipi di problemi, a quattro problemi. Un problema di tipo esegetico, adesso li elenco, poi dopo diciamo qualcosa su ciascuno. Problema di tipo esegetico, un problema di tipo invece di carattere dogmatico, diciamo, un problema, una problematica di tipo scientifico, e poi un problema di tipo filosofico o morale, filosofico-morale. Poi è utile vedere un po' quali sono il nocciolo di queste problematiche, per vedere quali sono i punti che sono più da comprendere meglio della dottrina del peccato originale. Allora, il primo tipo di problema sono le discussioni esegetiche che riguardano la storicità del peccato originale e della sua trasmissione, e quindi la sua trasmissione. E questioni che coinvolgono specialmente il significato di Genesi 3 e di Romani 5. E cioè gli studi esegetici, quello che in parte fanno è, intanto, senz'altro si può capire che il discorso della Genesi non è un discorso che pretende di essere storico nel senso che noi diamo questo termine, come un resoconto preciso di fatti che si sono svolti così come sono descritti, e ha anche senz'altro un carattere simbolico. Però ecco, quello che vogliono, che pretendono alcuni autori, è di dire semplicemente che non c'è niente di storico, cioè, e quindi anche l'esistenza della prima coppia e della loro trasgressione al comando di Dio, anche questo non ha nessun valore di storicità. E quindi, ecco, questo senz'altro è uno dei fronti su cui viene attaccato il dogma del peccato originale. In parte possiamo dire che già se uno si limita allo studio biblico, anche quando tenga presente tutta la Bibbia, come questi che mettono insieme Romani 5 e Genesi 3, non basta solo la Bibbia. La Bibbia ne ha detto che va letta insieme alla Chiesa, nella Chiesa, insieme alla comprensione che la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, ha avuto e ha di quei testi. Poi, secondo nucleo rispetto a Romani 5, quale sarebbe il loro punto di attacco? Il punto sarebbe che per alcuni l'esegesi, diciamo, più attuale farebbe vedere che è possibile vedere che anche per Paolo Adamo non necessariamente è una figura personale, ma può essere inteso come l'umanità. Questo a me sembra sinceramente molto difficile. Poi qui non ho approfondito, non so quanti siano quelli che mettono in luce questo. È molto più facile sostenere questo riguardo al racconto della Genesi, dove veramente anche il nome stesso Adamo è giocato con terra, e Adamo è usato anche, si può vedere anche lì un po' raccolta l'uomo in quanto tale, l'uomo in generale. Ma in Paolo mi sembra che sia veramente difficile, anche perché Paolo stabilisce un parallelo tra Adamo e Cristo. Cristo sicuramente è uno, e come Cristo è uno, il parallelo vale se anche Adamo è uno, altrimenti, cioè, quindi questa, vedere in Romani 5 una specie di personalità collettiva in Adamo mi pare veramente difficile. Però comunque, soprattutto il discorso di alcuni esegeti è è volto a mettere, cioè diciamo a sostenere la, la completa mancanza di storicità del racconto della Genesi, che sarebbe solo il modo in cui l'autore sacro ha voluto spiegare l'origine del male, ma si potrebbe interpretare questo come l'origine del male, come l'intera umanità è raffigurata in Adamo che si ribella a Dio, e sarebbe un'immagine di com'è l'uomo anche adesso, un uomo che mette in dubbio la bontà di Dio, mette in dubbio i suoi comandi e vuole fare di testa sua. Questo in astratto sarebbe anche appunto possibile, una lettura del genere, però non è la lettura che emerge leggendo appunto anche il Nuovo Testamento e poi vedendo l'interpretazione che la Chiesa ha sempre dato. Secondo fronte di problematico, di discussioni, è quello dogmatico. E diversi studiosi sono convinti che mentre nel Nuovo Testamento non c'è traccia del peccato originale, o non c'è una traccia sufficientemente esplicita, il conio, l'origine di questa teologia spetti a Sant'Agostino. Gli antichi concili, fino alle definizioni di Trento, avrebbero malauguratamente accolto le prospettive del vescovo di Ippona, facendole rientrare nella dottrina ufficiale della Chiesa. Per esempio un autore, direi che spagnolo, De Villamonte, ha scritto un libro nel 99, Cristianismo sin pecado original, cioè dove la sua tesi in fondo è che il cristianesimo debba liberarsi dell'idea del peccato originale, opera di Agostino, opera di Agostino, povero Agostino. Però invece diciamo è molto, è un'affermazione ingiusta, anche storicamente non ha fondamento, anche se Agostino ha avuto un ruolo importante, però abbiamo visto che lui, diciamo, lui non inventa da zero la dottrina, ma tutta la tradizione precedente. Gradualmente, è vero che all'inizio non c'era quasi niente di esplicito, ma gradualmente, anche spinta dalle discussioni con gli gnostici, poi con i manichei e poi con i pelagiani, come sempre succede nella Chiesa, le cose si precisano quando vengono posti i problemi. E allora a quel punto c'è la riflessione, poi c'è il magistero. Agostino è una tappa importante, ma di un processo, diciamo. Quindi, ecco, alcuni dicono questo. Comunque il punto è che la dottrina del peccato originale consacrata a Trento sarebbe di fatto inutilizzabile nel contesto culturale di oggi, segnato da secoli di acquisizioni scientifiche, paleontologiche, etnologiche, di storia delle religioni, di esegesi critica. Ecco, cosa dicono anche alcuni di questi, degli autori che sono in questa linea? Dicono, nelle sue formulazioni, il Concilio di Trento presuppone irriflessamente, cioè senza averci fatto una grande riflessione, che Adamo sia il progenitore di tutta l'umanità. Cioè, l'affermazione qui è, in quello che ha detto Trento, sì, si parla di Adamo, ma si parla di Adamo così come si è sempre parlato di Adamo, perché non è mai stato sollevata la possibilità che Adamo fosse appunto un simbolo, per esempio, dell'umanità intera. Al Concilio di Trento, come in tutta la tradizione precedente, questo non era mai stato un punto oggetto di discussione, e quindi Trento parla di Adamo come lo hanno sempre fatto i padri, come irriflessamente, ritenendolo il progenitore di tutta l'umanità. Ma non sarà che questo punto non è così irrinunciabile, che quindi possiamo pensare non solo a un Adamo persona, ma a un Adamo che è figura dell'umanità, oppure in altri modi, oppure, come vedremo in seguito ai dibattiti scientifici, pensare che Adamo sia in realtà una pluralità di persone, sarebbe il poligenismo. Ecco, questo direi che questa obiezione qui merita comunque di essere tenuta, cioè ci può essere spazio per questo tipo di analisi e di riflessione, dire il Concilio di Trento come ha usato il termine Adamo, cosa intendeva per Adamo, intendeva quello che si è sempre inteso senza però avere avuto nessun motivo per rifletterci a fondo. Noi adesso possiamo rifletterci e possiamo forse vedere in modo diverso. Ecco, questo lo teniamo come una cosa, vedremo anche il magistero recente come si esprime, e anche vedere cosa si può dire riguardo al monogenismo, al poligenismo. Poi, ecco, il terzo fronte di da cui vengono problemi, stimoli o critiche è quello scientifico. E, diciamo, il nocciolo più duro di questo tipo di problematiche è questo. Le teorie evoluzionistiche e i risultati, diciamo, comunque della paleontologia sembrano escludere un'interpretazione storica della protologia biblica, cioè dei primi capitoli della Bibbia, di Genesi. Sembrano escludere un'interpretazione storica, cioè sembra che la visione attuale di come è nato, si è originato l'uomo, non si accordi con il racconto biblico dell'origine da una sola coppia. Ossia, sembrano escludere la sequenza paradiso, peccato, castigo, stato originario, poi peccato e poi situazione dell'uomo come lo conosciamo adesso, segnato dal peccato originario. Non v'è traccia, si direbbe da parte di alcuni, non vi è traccia nelle teorie attuali sull'origine del mondo e dell'uomo, non v'è traccia di uno stato paradisiaco originario al quale per caduta abbia fatto seguito lo stato corrotto attuale. Ecco, questo è un punto su cui invece bisognerà un po', anche su questo faremo un pochino di messa a fuoco, di discussione. Io penso che non si possa affermare questo, così come... Comunque, nel momento in cui sono emerse, diciamo, tutte le teorie su evoluzionistiche, eccetera, vari teologi hanno in effetti preso sul serio le affermazioni scientifiche e hanno cercato di rivedere un po' se il dogma del peccato originale, come lo si poteva rendere compatibile con le nuove teorie. Tra questi c'è, ne citerò alcuni, due o tre. Il primo, mi sembra in ordine storico, che l'ho fatto in modo significativo e importante, è stato Teilhard de Chardin, che però, diciamo, un po' nelle sue affermazioni, in alcune, proprio quelle sul peccato originale, diciamo, ha trovato problemi. Cioè, ha trovato problemi perché, diciamo, su questa questione le sue affermazioni non sono conciliabili con la visione della Chiesa. E, per esempio, quando dice nel 1922 il peccato originale esprime, traduce, personifica in un atto istantaneo e localizzato, cioè in un atto storico, quello di Adamo, che cosa? La legge perenne e universale di caduta che è nell'umanità in virtù della sua situazione di essere infieri, di essere in divenire. Ah, qui c'è qualcosa che ci puzza, no? Perché fino a dire il peccato originale può essere un simbolo, ok, però di che cosa? Di una legge perenne e universale di caduta che è nell'umanità di per sé, in virtù di com'è l'umanità, che è in divenire. Va bene anche una cosa. No, cioè che questo chiaramente attribuisce veramente a Dio il fatto che Dio ha fatto l'umanità così in divenire come il resto dell'universo che evolve piano piano dal molteplice fino a organizzarsi sempre meglio. E in questo, adesso poi vi leggo anche qualche altro passo, qui c'è il male necessariamente, appunto questo insomma, è un'affermazione pesante, no? Nei confronti del creatore. Diceva anche, in un mondo che emerge a poco dalla materia, come sembra che ci dica l'evoluzione, di notare nell'evoluzione, non vi è più bisogno di immaginare un incidente primordiale, cioè il peccato originale, per spiegare il comparire del molteplice e del suo inevitabile satellite, il male. Cioè, il male sarebbe legato alla molteplicità, adesso poi non so bene perché poi il pensiero suo io non è che l'ho approfondito, mi sembra anche un po' a volte complicativo, almeno non è mai così lineare, però... In ogni caso dice, appunto, inevitabile satellite del molteplice, compagna del molteplice che poi piano piano si unifica e si ordina, si organizza, è il male. Il male compare necessariamente nel corso dell'unificazione del molteplice. Compare necessariamente. Addirittura dice questo... Dice si intravede... come l'esistenza del male potrebbe essere un accompagnamento obbligatorio, inevitabile della creazione. Insomma, ecco, cioè lui ci prova, fa probabilmente alcune delle cose che dice sono anche interessanti, intelligenti. Ratzinger, quando da teologo scrive, cioè, varie volte prende da lui anche delle idee, delle intuizioni, quindi non è che uno deve dire no. Croce sopra, cattivo, no, però almeno su questo punto del peccato originale ha una visione senz'altro problematica. Un altro è Rahner, cito alcuni che sono quelli anche che sono citati poi nel programma del corso nostro, che quindi si trovano, se uno ha il libro di Sayes vede che c'è Teilhard de Chardin, Rahner, poi una coppia Flick e Alzeghi, o non so come si pronunci perché non so la nazionalità, poi me la devo cercare, magari olandese, francese, no. e poi c'è Schoenberg, questo sì che invece è olandese, come si legge? Schoenberg. Con la foto come gli spagnoli quasi, o no? Schoenberg. Piet. Piet. Piet. Piet. Schoenberg. Allora, Rahner, due parole, che il pensiero di Rahner non è così decifrabile con facilità. Comunque, due parole che servono un po'. Lui qui viene citato soprattutto come uno che ha cercato di vedere se il poligenismo, cioè l'ipotesi che l'umanità non sia sorta solo da una coppia ma da più individui contemporaneamente, se è compatibile comunque con il peccato originale. Lui dice di sì, e lo dice quando Pio XII pubblica l'enciclica Humani Generis nel 51. E lui fa un commento, poi vedremo cosa dice esattamente l'Humani Generis, che sul monogenismo è piuttosto tendenzialmente negativo, però non è che chiude il discorso. Dice Pio XII in sintesi: non riusciamo a vedere come questa ipotesi sia conciliabile con il dogma del peccato, non riusciamo a vedere, dice proprio così. Però uno potrebbe dire, beh, magari poi un giorno riusciremo a capire o a vedere. Rahner va un po' in questa direzione e dice, gli sembra che questa sia una certezza teologica, ma non definitiva, non irreformabile, quella che esprime il Papa. E poi dice, di per sé, l'ipotesi di una colpa che appare molto presto, prima della generazione di figli, in molte coppie, non è poi tanto arbitraria come si potrebbe pensare. Quindi lui tende a essere possibilista sul poligenismo e a dire che non gli sembra, ecco, incompatibile con il peccato originale. Di più non so dirvi su Rainer, sul peccato originale, se volete mi informo, ma tendenzialmente è questo. Comunque anche lui cerca di un po' di mettersi in dialogo, in dialogo costruttivo con le nuove teorie scientifiche. Poi ci sono i due olandesi, Flick e... di questi vi parlo la prossima volta, così prima guardo anche bene di dove sono. Dirò due parole invece su Schoenberg. Lui è uno che, più che di peccato originale originante, tende a vedere il peccato originale solo nella sua forma di originato, originato nell'umanità. Sarebbe una solidarietà universale nel peccato che coinvolge tutta l'umanità, è come uno stato peccaminoso in cui la persona umana si viene a trovare, e ci si viene a trovare in quanto immersa nella, diciamo, nella rete di relazioni sociali con gli altri. Schoenberg parla molto di peccato del mondo, peccato del mondo, che come si sarebbe formata questa situazione di peccato. Lui non nega che Adamo ci sia stato e abbia commesso un peccato, ma questo sarebbe stato solo il primo di tanti altri che gradualmente hanno, come, deteriorato il tessuto umano, la rete di relazioni tra gli uomini, e quindi ogni uomo poi che nasce si trova in una situazione che oggettivamente lo spinge al peccato, lo spinge al male. Ecco, qui, anche qui un po' il grosso problema è che manca un'origine di questo male. Sembra che in fondo ogni uomo dia il suo contributo, ma perché lo dà? Se tutti gli uomini sono così, non sarà allora che questo significa attribuire a Dio, di nuovo, una specie di difetto di fabbrica sull'uomo? Se escludiamo che ci sia stato una condizione totalmente buona dell'uomo, creato da Dio in una condizione totalmente buona. Bene, ci interrompiamo, la prossima volta finiremo con i punti problematici, poi vedremo qualche autore e le affermazioni del Magistero più recenti.